Sono le ore 23:24 di domenica 23 giugno e mi ritrovo a camminare per le vie di Garbatella perché come a volte accade mia figlia si intrufola in situazioni sociali logisticamente difficili, dove ancora non è capace, per intenderci, ad arrivare in auto da sola e soprattutto tornare da sola, e quindi ancora il papà serve a qualcosa, per fortuna, mi verrebbe da dire. E quindi mi ritrovo in una zona dove non capito più molto spesso. Va detto che fino a qualche tempo fa, per le ragioni più varie, tutta la zona tra Testaccio, Ostiense, San Paolo e Garbatella, naturalmente, erano zone dove mi capitava di passare, soprattutto anche per ragioni strettamente culturali, mi verrebbe da dire. Succedono parecchie cose da queste parti che mi interessano però ecco, quello che mi viene qui da dire è che forse dicendo Garbatella fuori da Roma, me ne rendo conto anche andando sui subreddit dedicati a Roma, si evocano cose che sono infinitamente distanti, quasi opposte rispetto a ciò che è veramente, a conferma di quella esercitazione che abbiamo fatto anche con i ragazzi del corso di Digital Humanities, cioè della infinita distanza che c'è tra i termini, gli aggettivi della Roma vissuta, se paragonati invece ai termini della Roma raccontata e quindi purtroppo percepita. Quindi Garbatella, per esempio, fa un po' l'effetto di certe parole storpiate dai milanesi, no? Addirittura invertite, come sti cazzi e megoglioni, no? Che loro sono molto, diciamo così, divertiti nell'usare, appunto, però quasi sempre a sproposito, addirittura spesso invertiti. E Garbatella fa parte di queste inversioni, perché tu dici Garbatella fuori da Roma e chissà perché ancora è identificata con una Roma negletta, una Roma di serie B, una Roma addirittura pericolosa. Cioè, ho letto su subreddit delle domande di persone che prima ancora di guardare il prezzo degli affitti chiedeva: ma Garbatella è pericolosa, ti possono accoltellare, no? Discorsi del genere, che uno non capisce perché. Forse una forma di priming, cioè siccome il termine appartiene sicuramente a un vernacolo popolare, automaticamente si associa al fatto che si tratta di una borgata, e quindi anche la parola borgata rientra, no, in questo genere di associazioni di pregiudizi. Beh, automaticamente si pensa al pericolo. Ed è incredibile, perché Garbatella è una delle zone di gran lunga più sicure di Roma, che a sua volta è una delle capitali più sicure d'Europa. E qui forse io credo che anche una certa produzione televisiva, cinematografica su Roma non aiuti a farci capire veramente che cos'è questa città, no? Cioè, una città dove sì, sicuramente hanno operato delle bande criminali potentissime, a cominciare dalla possibilità che avevano queste bande di costituire spesso la costola militare degli affari di Stato, quando lo Stato non poteva permettersi di agire in prima persona. Ma al di là di questo, mi chiedo cosa c'entri una borgata come Garbatella, che anzi non solo è uno dei quartieri dove è più difficile andare a vivere per ragioni proprio di costi degli affitti, di costi naturalmente degli immobili, ma soprattutto è ormai largamente, sì, è un quartiere che ha un'anima popolare, e mi verrebbe da dire ormai forse proprio per questo esclusivo, perché sono proprio i quartieri senza anima che non hanno valore a Roma. che forse lo avranno, chissà, molto più avanti, no? Visto che l'anima popolare di una città si sposta sempre di più in periferia, visto che viene cacciata dal centro progressivamente, o per ragioni ufficiali, politiche, ed è il caso di Garbatella, o proprio per ragioni commerciali, economiche, come accade ormai negli ultimi anni qui a Roma. E mi verrebbe da dire che quando accadeva per ragioni politiche, le più detestabili, però poi comunque dietro c'erano dei progetti architettonici molto molto apprezzabili, perché insomma fatevi un giro nei lotti di Garbatella e il solo fatto di poter attraversare questi cortili pieni di verde vi dà un'idea di che tipo di visione vi fosse della città, del concetto stesso di casa popolare nei tempi in cui fu progettata da pregevolissimi architetti, che è un po' lo stesso discorso che si potrebbe fare per altri quartieri, diciamo, dell'anima popolare, ormai diventati signorili, come il Flaminio, dove le case popolari sono Villa Riccio, che insomma è uno dei posti più difficili dove comprare un appartamento o affittare un appartamento in tutta la città. Ma l'abisso che separa il percepito dal vissuto, il reale dal rappresentato, a Garbatella trova forse la sua metafora più potente. Per il paese Garbatella è qualcosa che è diametralmente opposto a ciò che i romani vivono e soprattutto a ciò che i romani non possono permettersi di vivere.